1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora ci siete, cari ascoltatori, perché noi siamo qui. E voi potete al 349-238-6666, anche via WhatsApp, anzi soprattutto via WhatsApp, mandarci i vostri commenti. E allora siamo qui, siamo pronti a raccontare quello che succede sui giornali e nei giornali e tra i giornali. Petalosi abbraccia tutti. Mamma mia, quanto mi fa arrabbiare questa cosa. Oggi farò un... Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Padre Livio, hai ragione, ma questa cosa di Petaloso invece io non riesco ad accettarla. Sto per spaccare due vetri oggi, se leggo ancora... Vabbè, dai, andiamo, i giornali. Giovedì 25 febbraio, il Sole 24 Ore come apre? Il petrolio affonda le borse, Piazza Affari perde il 2,6%, questa è la giornata non positiva dal punto di vista finanziario. E poi le unioni civili, alla fine c'è il maxi emendamento sul quale verrà posta la fiducia e che sorpassa tutta la legge Cirinnà, è il titolo più gettonato per il Corriere della Sera. Unioni civili, patto coi centristi. Repubblica, unioni, c'è l'intesa, adozioni stralciate, oggi voto di fiducia. Il Messaggero, via adozioni e fedeltà, c'è l'intesa. Eh sì, perché hanno tolto nel maxi emendamento anche l'obbligo al dovere di fedeltà nelle relazioni omosessuali. Cari omosessuali, copulate pure con grande divertimento, perché non siete tenuti all'obbligo di fedeltà. Avvenire, unioni, ultimo atto, pronto il nuovo testo del disegno di legge. Per il manifesto, figli di un Dio minore, via la stepchild adoption. Il maxi emendamento alla legge sulle unioni civili è pronto e recepisce la linea di Alfano. La Stampa, unioni civili, c'è l'intesa, ma il piano di Verdini, nuova spina per Renzi. E sì, perché c'è anche la questione Verdini, che tra poco vedremo. È nata la democrazia renziana, vincono Alfano e Verdini col 2,5%. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Unioni gay, ecco la legge, così apre il Giorno. Insomma, come vedete, le aperture sono tutte su questo. Tranne l'Unità, che titola sulla vicenda Regeni tutta la verità. Gentiloni, cioè il ministro degli esteri, ai nostri agenti accesso agli atti e no a versioni di comodo e piste improbabili sull'uccisione del ricercatore Regeni, che tra l'altro l'Unità mette in prima pagina con verità per Giulio Regeni, con l'avviso e l'invito ai lettori dell'Unità di mandare un appello all'ambasciata d'Egitto. Il titolo invece di Libero è questo e voglio partire da qui. 1100, 1000 moschee, la consulta boccia la legge lombarda. La notizia di ieri è che la Corte Costituzionale ha bocciato la legge varata dalla Regione Lombardia un anno fa, una legge che contiene una serie di norme urbanistiche restrittive per costruire nuovi luoghi di culto. È stata ribattezzata legge antimoschee, anche se ovviamente non può esserci una legge così, legge contro le moschee, ma è stata vista e dipinta da tutti così, e forse nasce anche in questo senso. Ecco allora che la reazione del governatore Maroni, il presidente della Regione Lombardia, è stata questa su Twitter: Allahu Akbar. Una reazione che ha suscitato anche polemiche, tanto che Andrea Montanari di Repubblica va a intervistare Roberto Maroni. Lei ha risposto Allahu Akbar, si rende conto del diluvio di critiche che ha suscitato, ma la mia era una battuta sui social, ce l'avevo con tutti quelli che in rete avevano scritto contro di me. Il solito atteggiamento da tifoseria, dice Maroni. Se la Corte mi smentisce, la sinistra brinda. Io ho grande rispetto per la Corte Costituzionale. Sì, ma Salvini l'ha definita una corte islamica. Ripeto, ho grande rispetto, voglio leggere le motivazioni della sentenza. C'è solo un piccolo giallo, dice Maroni. E cioè quale? Lunedì c'è stata l'udienza pubblica e alla Regione è stato detto che la sentenza sarebbe arrivata tra 20 giorni. Non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali, se non la lettura dei giornali. Allora, delle due l'una, o la sentenza è stata decisa e passata con una velina ai giornali, e questo non sarebbe bello, oppure non è nemmeno stata decisa e si tratta di un'anticipazione, in questo caso sarebbe ancora meno bello. In ogni caso, a seconda di cosa leggeremo nelle motivazioni, provvederemo a approvare una nuova legge. Quindi Maroni dice, insiste, faremo una nuova legge. Poi sulle moschee, comunque, dice Maroni, la Lombardia non è contraria alla costruzione di moschee a patto che si rispettino le regole. La moschea non è come un piccolo negozietto. Col nostro referendum sono convinto che i milanesi non approverebbero la proposta del Comune di Milano di concedere aree per costruire due moschee. Vabbè, questo la accomuna la notizia che c'è sulla stampa, pagina 13. Cari italiani, sempre meno gente va in chiesa, cresce l'Italia che diserta le chiese. È una inchiesta, un sondaggio, società e religione, soprattutto è più facile perdere la fede a 55 anni. La secolarizzazione avanza, racconta Rafael Zanotti in questo articolo. Il 29% sono le persone che dichiarano di frequentare un luogo di culto almeno una volta a settimana. Erano il 33% qualche anno fa, scese al 29%. Sono il 21,4% le persone intervistate che dichiarano di non andare mai in chiesa durante la settimana. Sono aumentate di 4,4 punti percentuali, 4,4. Rispetto a, al 2006, quindi negli ultimi 10 anni. La casalinga è il mestiere più religioso. In questa indagine si scopre che il 42,2% di casalinghe vanno in chiesa, mentre la categoria più agnostica e atea sono gli studenti, il 29%, quasi uno su tre, dice di non entrare mai in un edificio di culto. Comunque è interessante questa analisi che riguarda società e religione, la trovate sulla stampa, pagina 13, su il rapporto fra gli italiani e la religione, per l'appunto. Attenzione, perché l'autority anticorruzione, il suo presidente Raffaele Cantone, hanno messo nero su bianco una sorta di protesta che Sergio Rizzo descrive a pagina 6 del Corriere della Sera. È un caso. La protesta di Cantone con il governo, pochi fondi, la mia authority è bloccata. Scrive Sergio Rizzo a pagina 6 del Corriere, prima i guai dell'Expo, poi del Mose, quindi le toppe del Giubileo, i compiti in materia di trasparenza stabiliti dai decreti sulla pubblica amministrazione. Eppure, con tutto questo lavoro, l'autorità corruzione rischia di non poter gestire le nuove pesanti incombenze. Anche perché, lo ha messo nero su bianco in un documento intitolato Nota di aggiornamento al piano di riordino dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone scrive non può non evidenziarsi che il bilancio dell'autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate, se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'autority. E quindi, nella relazione sul bilancio c'è anche un paradosso di 50 milioni di euro in cassa che però non si possono usare e l'allarme lanciato dal presidente anticorruzione Cantone che dice non posso usare questi soldi e quindi rischiamo di far saltare l'attività. E questo racconta Cantone stesso. Volete una bella storia? E venite sempre le belle storie, quando le trovo io ve le propongo. Eccola qua, è una bellissima storia a mio modo di vedere, la storia che proviene da Biella. Viene intervistata da Paola Guabello per la stampa, o viene raccontata la storia di una donna che salva gli asini maltrattati. Paola Guabello, inviata a Sala, in provincia di Biella, prima pagina della stampa, è la rivincita degli asini, quelli veri, con le orecchie lunghe, quel raglio disperato che a dispetto di Martin Lutero questa volta è salito al cielo. Se cani e gatti hanno guadagnato diritti, privilegi, attenzioni, qualche volta perfino gli umani, a Biella invece muli e bardotti maltrattati sono diventati un piccolo esercito che si lascia coccolare da turisti con spazzole e sapone. È la storia di Barbara Massa, Denis Remordina e Denise Mansi che nel 2008, a meno di 30 anni, si sono inventati questo: portare in una sorta di fattoria, in un centro, gli asini maltrattati e curarli e farli incontrare coi turisti. Oh, pensate che nel giro di meno di 10 anni, in 8 anni, hanno messo in piedi un'azienda con 16 collaboratori stipendiati, 3 volontari, sono partiti da 3 volontari, hanno 16 collaboratori a libro paga. Abbiamo aperto nel 2009, ci sono 142 animali, facciamo pet therapy per i disabili, arrivano turisti, arrivano scolaresche, facciamo incontrare il mondo degli asini. Il mondo degli asini, non fate false ironie e facili ironie, che le scolaresche vanno anche in Parlamento. Non fate facili ironie. Peter, perché beh, stai ridendo? Per incontrare gli asini veri bisogna andare a Sala, in provincia di Biella. Va bene, scolaresche? Eccoci qui. Ma veniamo all'articolo che mi fa un po'... quello che mi fa pinzare della giornata. Torno su Libero, dove Mario Giordano racconta la storia di questo signore che si chiama Chris Caris, rom, che rubò a casa di Hermes Mattielli. Ricordate, Hermes Mattielli reagì, sparò, uccise una persona, poi fu condannato, poi è morto di crepacuore perché fu condannato anche al risarcimento. È successo che questo Chris Caris, che andò a rubare a casa di Mattielli, è stato ripizzicato mentre rubava ancora, proprio così, ed è stato ripreso ed è stato riliberato già. Leggetevi la storia di Chris se vi chiedete perché la gente non crede più nelle istituzioni, perché si sente indifesa, perché corre a prendere le armi a difendersi da sola. Leggetevi la storia di Chris Caris, il rom che rubò a casa di Hermes Mattielli. Ve lo ricordate? È successo ad Arserio, provincia di Vicenza. Hermes sparò, Chris rimase ferito, ottenne il diritto al risarcimento. Ma come, direte voi? Uno va a rubare in casa d'altro e viene risarcito? Proprio così. E Hermes, che era invalido, aveva lavorato una vita per mettere su casetta, muore di crepacuore poco dopo la sentenza. Sembrava la notizia finale di un'assurda ingiustizia, invece era solo l'inizio. Infatti qualche giorno fa Chris è stato beccato di nuovo a rubare. Ma non che sia una notizia clamorosa, scrive Mario Giordano, essendo un ladro ruba, è il suo mestiere. La notizia è che lo Stato glielo lascia fare senza impunità. Infatti Chris, che rubava a casa di Hermes, continua a rubare nelle case d'alte e continuerà a farlo, perché questa è l'ultima chicca di questa storia scandalosa. Il giudice ha deciso che Chris, colto con le mani nel sacco mentre rubava nelle baite, può tornare ancora libero, con obbligo di dimora nel campo nomadi. Il ladro pagato dallo Stato per continuare a rubare. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, aiuto! Non ti devo dire che dialetto sono sardo sono. Insomma, questa si capisce abbastanza. Evviva! Allora, cari ascoltatori, siamo qui a parlare delle unioni civili, perché ci siamo, è il giorno della votazione al maxiemendamento con fiducia che il governo ha messo a punto per sostituire la legge Cirinnà, visto che con quella legge non si andava avanti. Allora, Emilia Patta sul Sole 24 Ore racconta, pagina 25, racconta molto bene che succederà. Non c'è più la stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio naturale del partner all'interno della coppia gay, come già annunciato. Non ci sarà, curiosamente, neanche l'obbligo di fedeltà tra i contraenti dell'unione civile, così come invece c'è tra i coniugi del matrimonio. Una diminuzio che, secondo gli alfaniani, serve a distinguere i due istituti e che invece, secondo l'associazione gay, è offensivo e frutto di un pregiudizio. Come che sia, il maxi emendamento interamente sostitutivo del DDL Cirinnà, dopo una girandola di incontri, ha visto la luce nella serata di ieri. Certo, ha visto la luce. Intanto questa cosa effettivamente del mancato obbligo di fedeltà delle coppie omosessuali, vabbè, scatena subito il classico dibattito. Guardate qui Mattia Feltri a pagina 2 della Stampa: tradimento libero per i gay, tra nervosismi e ironie. C'è chi dice: ma non è vero, noi facciamo meno sesso degli eterosessuali, o sì, questi sono i classici luoghi comuni, che gli omosessuali sono più promiscui. Insomma, il dato di fatto è che questa è una cosa che ha voluto fortemente il partito di Alfano, come racconta Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta tutti gli incontri ieri tra la Boschi e quindi il PD e i rappresentanti del nuovo centrodestra di Alfano per cercare di limare il testo, modificare, togliere. A un certo punto il ministro alla famiglia Enrico Costa e il cattolico intransigente Nico D'Ascola, entrambi di NCD, hanno chiesto e ottenuto di eliminare l'obbligo reciproco alla fedeltà nelle coppie omosessuali, cosa che il PD ha concesso ritenendola anacronistica e ininfluente sulle norme. Perché l'hanno fatto dal nuovo centrodestra? Perché così si distingue effettivamente in maniera chiara che una cosa sono i matrimoni eterosessuali, che prevedono anche l'obbligo di fedeltà reciproca, e invece le unioni omosessuali no. Omosessuali copulate, omosessuali copulate, pure in totale libertà. Lo fanno anche nei matrimoni dove c'è la reciproca fedeltà, ma basta che non si dica e allè, l'ipocrisia va avanti. Allora, c'è però il fatto politico su queste unioni civili. Il fatto politico è che i 19 senatori verdiniani voteranno la fiducia. E questo modifica le cose, modifica la maggioranza, cioè di fatto Verdini sostiene il governo, ma non lo fa sostenendolo con le parole, adesso con i fatti, con gli atti parlamentari. Ecco qui Repubblica, Verdini schiera i suoi 19, Matteo ci ha chiamato, a questo punto ormai siamo in maggioranza. Renzi ha chiamato, noi rispondiamo, così inizia l'articolo di Tommaso Ciriaco a pagina 7 di Repubblica. Dal palco del PD ci ha riconosciuto dignità politica, noi adesso votiamo la fiducia su una legge giusta. Pragmatico come sempre, Denis Verdini percorre l'ultimo miglio che lo separa dalla maggioranza sventolando la bandiera dei diritti. Una giornata in cui il telefonino dell'ex berlusconiano squilla fin dal mattino, mattone dopo mattone Verdini costruisce il ponte che lo conduce al premier. Addirittura qualcuno dice: ma a questo punto Renzi dovrebbe farlo entrare al governo. E qui è molto interessante ciò che Giuseppe Alberto Falci racconta, pagina 3 della Stampa, perché Verdini entrerà presto al governo, giura la Stampa. Non lo farà perché Renzi gli darà un sottosegretariato o qualcosa. Questo Renzi non lo può fare. Allora Verdini che cosa fa? Annuncia questo: il sottosegretario Tonino Gentile dal nuovo centrodestra molto presto passerà con noi. E così avremo un nostro uomo al governo. Parola di Denis Verdini. Caffè Ciampini, pieno centro della capitale, luogo dove si incontrano i protagonisti della politica. Sono le 8:40 quando Verdini, una volta generale di Berlusconi, in abito grigio, cravatta di sartoria, camicia bianca, si siede al solito tavolo, accompagnato da tre uomini che in silenzio lo ascoltano. L'ex berlusconiano accende una Marlboro rossa e scandisce parole chiare. Quindi si tratta di, come dire, un dialogo rubato, se volete, dal cronista. Ho parlato con Matteo, non ha i numeri al Senato, la sinistra del PD è in subbuglio, lui non la controlla, ma può e deve contare sul nostro sostegno. A Fitto ho già tolto altri tre senatori che presto saranno dei nostri. E dunque appoggio esterno, ma una condizione: le bocche resteranno cucite fino a stamani, quando il premier varcherà l'ingresso dell'emiciclo di Palazzo Madama. Per sposarsi ci vuole qualcuno che te lo chiede, e domani Matteo ce lo deve chiedere espressamente. Una cosa è chiedere un voto semplice, un'altra è chiedere un voto di fiducia. Ed ecco dunque, Verdini ripete più volte il nome di Tonino Gentile, e sarebbe il colpo, il nuovo acquisto, il sottosegretario che dice Verdini un mese, massimo due, e Tonino passa con noi. Avete capito? Avete capito cosa succede? Intanto, questo per le unioni civili, intanto per le amministrative vi segnalo che ieri Matteo Salvini è andato in un campo rom e è stato accolto con un palco, con gli applausi. Non ho capito, cioè, cos'era, ironia? Non lo so, è andato lì in un campo rom a parlare ed è stato accolto bene. E Salvini rilancia: ho io il nome, un'idea ce l'ho per il nome candidato sindaco a Roma. Ma come, non è Bertolaso? No, non è Bertolaso. Non è Marchini? Evidente. No, ce l'ho io un nome. Bisogna ascoltare i cittadini e deve essere un romano. Quindi preparatevi, perché può darsi che ci sarà un nuovo nome, questo da Salvini a destra per Roma. Mentre cominciano alcuni dossier su Virginia Raggi, candidata ufficiale del Movimento 5 Stelle a Roma, perché questo dossier che oggi viene citato dall'Unità e che viene stato ripreso anche da affariitaliani.it è questo: Virginia Raggi ha lavorato, lavora nello studio San Marco, fratello del penalista Alessandro San Marco, molto vicino a Cesare Previti. Capite che, per carità, è tutto arzigogolato. E Fabrizio Rondolino, che era ospite ieri anche nostro sull'Unità, fa un commento a dire: per carità, Virginia Raggi ha diritto di lavorare come, dove, con chi preferisce. Anzi, una buona notizia sapere che il Movimento 5 Stelle non annovera tra i suoi esponenti più in vista solo disoccupati e studenti fuori corso. Però, insomma, ecco, questo che ci fa Cesare Previti nella galassia di Virginia Raggi, o viceversa, che ci fa Virginia Raggi in qualche modo nella galassia di Cesare Previti. Ecco, questo per dire, insomma, il clima. E per concludere su Roma, Marchini e quei 60 milioni sospetti. Su Repubblica il Fatto Quotidiano si racconta di un'ispezione della Banca d'Italia con Emanuele Gatti, che col suo team ispettivo di 6 esperti sono stati inviati da Banca d'Italia e hanno scoperto che 60 milioni da Banca Popolare di Vicenza, transitati su alcuni fondi lussemburghesi, sono finiti alla società di Alfio Marchini. Tutto segnalato ai magistrati di Vicenza. Il gruppo Marchini, si scopre, scrive Repubblica, ha anche accumulato con l'istituto 75 milioni di euro di prestiti non restituiti. Marchini risponde: è tutto classico fango elettorale, è tutto alla luce del sole, sono soldi che ho preso dalla Popolare di Vicenza. Dice: qual è il problema? Dice Marchini: ho beneficiato di 25 milioni attraverso Metorios della Popolare di Vicenza, nessun problema, sono normali operazioni all'estero. Insomma, stiamo parlando di nulla. Così Alfio Marchini. Ma vedete che il clima è questo qui. Caro Petaloso, ma io vi giuro, sfondo il microfono oggi, dopo dovrò dire qualcosa. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Questo Petaloso mi fa molto innervosire, lo so. Vorrei ignorare l'aggettivo, o invece no, notavo con piacere che il confronto per Roma. Di Roma e sui programmi. Sì, sì, è proprio un dibattito serrato sui contenuti e sulle idee di governo. Va bene, dunque, saltando a pie pari l'epiteto con cui mi ha introdotto, sul quale... Ma non era un epiteto, dai. Mi riservo il giudizio, anche sottoponendo naturalmente i miei legali. Ti voglio ricordare che domani, ricordati che domani... Sì, la casa... Oh, no, perché già temevo che tu ritirassi fuori la battuta di Massimo Troisi. No, domani, con il sole 24 ore, ma solo domani, cioè, vai sabato, non c'è più l'instant sulla casa. Ah, non so se sono stato chiaro. Sì, domani, venerdì. È venerdì. Domani, va bene. Allora, domani l'instant sulla casa, di cui, tra l'altro, parliamo anche, annunciamo anche i contenuti, oggi sul sole 24 ore, nelle pagine di Casa 24, sai che il giovedì. E certo. Noi abbiamo le pagine dedicate appunto alla casa, al mercato della casa, norme sulla casa. Oggi su Casa 24 anche qualche piccola anticipazione dell'instant che troverai, quando lo troverai? Domani, solo domani. Vedi che poi le cose le sai, se vuoi, se ti applichi. Su Casa 24 tra l'altro c'è anche un'interessante inchiesta sulla tenuta dei prezzi, dei valori, diciamo così, delle seconde case, se uno volesse appunto utilizzare questa forma di investimento. Bisogna sapere che ad esempio la montagna si è rivelata con una tenuta migliore rispetto alle seconde case in località marina. Ma puoi leggere tutti i particolari su Casa 24 di oggi, nelle pagine di Casa 24 di oggi. Poi ti voglio dire, sappi che è stato definitivamente convertito in legge il mille proroghe. Ah. Mille proroghe, tra l'altro ci sono cosucce importanti, te lo spieghiamo naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi, così come ti segnalo, so che la notizia ti aveva sfruculiato parecchio. Vediamo. la intesa raggiunta per tenere aperti i musei anche in caso di sciopero, almeno per metà. La trovi su Norme e Tributi, caro mio. Lì c'è la descrizione appunto di questa intesa che, ricordi quando il governo decise di intervenire per la questione dell'assemblea sindacale che aveva bloccato il Colosseo? Ecco, l'intesa proviene da quella, da quell'evento, e stabilisce che bisognerà almeno dare una metà di visita anche in caso di sciopero. Ho molte altre cose, ma te ne segnalo una tra le pagine di Finanza, che tu le dovresti leggere avidamente, si sa. Benissimo, perché c'è un progetto per un gasdotto Russia-Italia. È un nuovo progetto per un gasdotto Russia-Italia, leggilo perché potrebbe essere interessante. E poi, naturalmente, i dettagli su cui torniamo nelle prime pagine sulla cosiddetta superborsa, sai, questa ipotesi di fusione tra Londra, Francoforte e Milano. Ecco, tutto questo sul Sole 24 Ore di oggi e molte altre cose. Guarda, se proprio ci tieni trafficoso, lo potrai accettare. Mi ha scritto nel frattempo il mio avvocato. Ecco. Allora, visto così, a questo punto, traffico! Alino Milan, il giornalista sempre di moda, quindi oggi è petaloso. Eccolo là, io sfondo i microfoni, ve lo dico. Allora, occupiamoci della non verità che arriva dall'Egitto sulla morte di Giulio Regeni, ricercatore. Davvero è un qualcosa di vergognoso, che ha fatto sbottare anche il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Giulio ucciso per vendetta, questa l'ultima versione, la quinta versione dell'omicidio di Regeni, assassinato per motivi personali, dicono dall'Egitto. Gentiloni che reagisce, pretendiamo la verità, l'avvocato della famiglia che reagisce, contrasteremo ogni depistaggio, e minacciano querele. Insomma, Fiorenza Sarzanini addirittura racconta in un retroscena a pagina 8 del Corriere della Sera che dall'Egitto c'erano le voci di un nuovo arresto, cioè il Cairo voleva scaricare il delitto su uno spacciatore, quando invece già dall'autopsia era stato accertato che Regeni non aveva mai usato droghe. Insomma, diciamo che la vicenda si complica sempre più. Riuscire ad arrivare alla verità è davvero un qualcosa di complicato per questa tragedia. Così come Repubblica continua, mette a pagina 2-3 la questione delle intercettazioni. Il ministro Boschi ha riferito le intercettazioni degli americani ai tempi del governo Berlusconi nei confronti di Berlusconi stesso e i suoi collaboratori sono inaccettabili. I PM aprono un'inchiesta. E Carlo Bonini a pagina 3 racconta l'allarme di Palazzo Chigi, perché da una parte ci vogliono pressioni diplomatiche nei confronti di un'azione considerata dall'Italia assolutamente illegittima, dall'altra senza gli Stati Uniti ci isoliamo. Ecco, quando io ieri ho detto, proprio nel giorno in cui viene fuori la notizia delle intercettazioni, noi diamo le basi di Sigonella, prego, anche un paio di birre e due scappellotti se ce li volete dare. Questo è il pragmatismo, insomma, quando c'è un rapporto di forza da una parte sbilanciata, è chiaro che da una parte si fa la voce grossa, vergognosa, intercettazione, dall'altra il pragmatismo, e quindi si va avanti e si accetta tutto questo. Vi segnalo che dal punto di vista della cronaca nera c'è stata un'udienza molto, molto importante per la questione dell'omicidio di Yara Gambirasio, il cui unico processato è Massimo Bossetti. Ieri c'è stata una teste che ha accusato in maniera molto chiara: Bossetti era in auto con Yara. L'ho vista entrare Yara Gambirasio, 13 anni, nell'auto di Bossetti. La difesa ha detto le date non coincidono, non stava in città. Diciamo che c'è stata ovviamente una testimonianza, c'è stata questa testimonianza che potrebbe risultare decisiva, e c'è stato poi un processo in cui lo sputtanamento si è fatto molto evidente, con la moglie di Bossetti che ha dovuto rispondere della frequentazione di siti pornografici, dicendo no, ma li guardavo io, o al limite li guardavo con mio marito, tanto che lo stesso imputato in aula ha detto adesso basta, urlando a un certo punto. Questo raccontano i cronisti che erano presenti a quella vicenda. Ma che dire, eccoci qua, la questione di Petaloso. Guardate, io ve lo dico, non lo so, reagisco così per... Sì, lo so, questa vicenda di Petaloso, cioè un bambino per descrivere il fiore nel suo tema non sapeva che aggettivo usare, ha usato l'aggettivo petaloso, un aggettivo che non esisteva prima che l'Accademia della Crusca, dopo questa mobilitazione di tutte, ha detto ma sì, è un errore bello e questo neologismo potrebbe anche nascere. E allora ecco qua l'intervista al presidente dell'Accademia della Crusca sul Giorno. Petaloso, il neologismo che fa impazzire l'Italia. Il Giorno, La Stampa, Petaloso, il neologismo. L'ha detto già anche Renzi. Anche Renzi l'ha usato. Dopo Expo, Petaloso, l'Italia fuori dalla crisi. Pagina 4 dell'Unità. Sarà un dopo Expo Petaloso. Vi prego, fermatevi. Fermatevi, prima l'ho detto, Renzi, posso fare un appello pubblico? Non sei obbligato ad abbassarti, a parlare come il volgo e a scadere nel trituramento di Zebedei quotidiano attraverso queste cose inutili. Petaloso, non usarlo, non serve, non sei più vicino agli italiani se ti confondi col volgo. Selvaggia Lucarelli, il fiore petaloso e il premier paraculoso. Vedete, poi nascono queste cose. Renzi, non usarlo più. Non mi ascolterai, ma non usarlo mai più. Petaloso, non serve, non serve. Mentre la carta costa va a Gaia Cesare sul Giornale, che racconta che William, il principe William, è nel tritacarne perché è troppo pigro. Una pagina per dire che l'erede al trono partecipa a pochi eventi pubblici. Ma chi se ne frega!